Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Quartieri spagnoli, Vomero, Sanità, Secondigliano. Siamo a Napoli. Si snodano lungo questi percorsi gli affari dei boss della Camorra. Droga, contrabbando, armi, usura, traffico di esseri umani, traffico di rifiuti ospedalieri e tossiconocivi. Sono gli affari della Camorra in Campania. Difficile quantificare il fatturato che i clan emergenti si spartiscono ogni anno. Nella criminalità organizzata in Campania però non comanda nessuno in particolare e ogni boss scalpita per assumere il controllo della città. Nel centro di Napoli c'è una sorta di riposizionamento di vari gruppi camorristici, una sorta di tutto contro tutti, anche perché il vecchio equilibrio che c'era prima è tramontato. Avete sentito, tutti contro tutti. Questa è la fotografia della Camorra napoletana scattata dal pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia, Raffaele Marino. Ma questa è la situazione attuale. Per comprenderla fino in fondo bisogna compiere un passo indietro. Nei primi anni 70 la Camorra non è ancora strutturata come Cosa Nostra in Sicilia. Nei quartieri di Napoli comandano ancora i guappi, ma qualcosa si trasforma con l'ascesa in campo di Raffaele Cutolo. Lui teorizza quello che poi verrà definito il sistema. Viene chiamato O Professore. Promette alla malavita locale di diventare protagonista e fonda NCO, Nuova Camorra Organizzata. Il magistrato Carlo Alemi ha interrogato più volte il boss Raffaele Cutolo. Cutolo riesce a prendere il controllo a delle carceri in Italia. Per quanto riguarda invece la nuova Camorra organizzata, Cutolo è riuscito ad organizzarla in un modo tale nel quale figurava un po' anche come il Robin Hood. C'era questa assistenza organizzata anche ai familiari dei detenuti, ai familiari malati. Cutolo veniva visto come un uomo che era comunque una sicurezza e un punto di riferimento. Raffaele Cutolo si ispira in quegli anni ai rituali della Camorra ottocentesca. Il boss organizza riunioni nel carcere di Poggio Reale, affiglia gruppi di malavitosi offrendo loro uno stipendio fisso, libera imprenditori e commercianti dal pagamento delle tangenti e gestisce il mercato, impone assunzioni, fornisce le materie prime, controlla commesse e appalti e si assicura un rapporto forte e duraturo con la politica. A Napoli, in Campania, Raffaele Cutolo gestisce il voto di scambio e diventa potente. Gli altri clan non riescono a fronteggiare il sistema della NCO. Così, nel triennio 79-81, le famiglie Bardellino, Nuvoletta, Alfieri e Zazza si alleano. Nasce la nuova famiglia. I Bardellino sono a capo dei Casalesi. I Nuvoletta sono affiliati alla mafia corleonese. Il primo affare per la nuova alleanza nasce da una disgrazia. È il 23 novembre del 1980, l'Irpinia devastata da un tremendo terremoto. Ma che terremoto? Ragazzi, che aiuto? Tutto abbiamo perso, abbiamo bisogno di tutto, della casa, di vivere, di tutto. Non possiamo stare così. Il giudice per le indagini preliminari della Procura di Santa Maria Capua Vetere, Raffaele Piccirillo. Ciascun clan esercitava l'attività estorsiva sulle imprese appaltatrici in relazione alla propria area di influenza. Il processo di cui mi sono occupato, cosiddetto processo Reggilagni, concerneva forse il più importante appalto della ricostruzione post-terremoto. Il tipo di influenza che si realizzò è sostanzialmente un'attività estorsiva diretta tanto ad imporre il versamento di tangenti, quanto si imponeva praticamente di far lavorare imprenditori vicini al cosiddetto clan dei Casalesi. Tutte queste figure di grandi imprenditori sono state assolte, ritenendo plausibile questi, anziché essersi avvantaggiati del rapporto con l'associazione criminale, in realtà potevano essere state semplicemente delle vittime. Raffaele Cutolo trae guadagni dalla ricostruzione dell'Irpinia e dell'intera provincia di Napoli, poi chiederà di partecipare all'affare in virtù di un favore fatto allo Stato. Era il 27 aprile del 1981. Torre del Greco. Le Brigate Rosse, guidate da Giovanni Senzani, sequestrano il presidente della Commissione per la ricostruzione, l'assessore regionale e democristiano Ciro Cirillo. È un personaggio importante nella geografia politica della Campania. Ciro Cirillo è da sempre vicino ad Antonio Gava, a quei tempi ministro dell'Interno. Ciro Fiorillo, il segretario particolare dell'assessore Cirillo. Questa è la sua testimonianza poco dopo il rapimento. Loro hanno aperto praticamente, hanno tirato la sicura ed hanno aperto la porta ed hanno tirato a viva forza l'assessore dalla macchina. Lui ha cercato di reagire, di fare opposizione, appena lo hanno tirato un poco fuori, gli hanno dato un colpo in testa, non so se poi dopo ne hanno dato ancora qualcun altro. Le Brigate Rosse dunque condannano a morte Ciro Cirillo e diffondono un video in cui si vede l'assessore in penombra mentre Giovanni Senzani pronuncia la sua sentenza. Il processo a Ciro Cirillo è terminato e la condanna a morte di questo boia è la giusta sentenza in questa società divisa in classi. Qualcosa però interrompe il piano delle Brigate Rosse. L'assessore Ciro Cirillo viene rilasciato il 23 luglio 1981 e quel giorno l'allora sostituto procuratore della Repubblica di Napoli, Libero Mancuso, si reca nell'abitazione di Ciro Cirillo, a Torre del Greco, ma vede scendere dalle scale il segretario della Democrazia Cristiana di allora, Flaminio Piccoli, e il ministro dell'Interno, Antonio Gava. Noi andammo immediatamente presso l'abitazione di Cirillo, ma evidentemente non facemmo a tempo perché quando stavamo per salire le scale, le scendevano, quelle stesse scale, gli onorevoli Piccolava, che erano già riusciti così ad avere un contatto, un rapporto con Cirillo. E quando voi parlate con noi? Noi parlammo con Cirillo emetteva soltanto dei suoni inarticolati, capimmo che si trattava di una messa in scena. Comunque chiamammo un medico, il quale certificò che il Cirillo era sotto forte shock. Lo interrogammo dopo diversi giorni e lui negò recisamente che vi fosse stata una trattativa e che fosse stato pagato un prezzo. Cosa volete sapere? Come ha trovato Cirillo? Beh, intanto gli ho portato la gioia della Democrazia Cristiana per questa liberazione. L'ho trovato molto provato perché quasi 3 mesi di detenzione di questo tipo provano anche gli uomini più forti fisicamente e psichicamente. L'ho trovato però con un animo tranquillo che svela anche tutto l'atteggiamento di leale, di coraggio che ha avuto durante questa spaventosa prigionia. Tutto sembra regolare, ma nell'operazione Cirillo in molti commettono degli errori. Gli inquirenti accertano il pagamento di un riscatto di 1.410.000.000 di lire dopo un'oscura trattativa a cui parteciparono brigatisti, boss della nuova camorra organizzata come Raffaele Cutolo, i vertici del Sismi, Giuseppe Santovito, Pietro Musumeci e il faccendiere legato ai servizi segreti Francesco Pazienza. Il giudice Carlo Alemi partecipa al processo stralcio sul caso Cirillo. I servizi segreti e esponenti politici della DC hanno preso contatti con Cutolo, che era una potenza all'interno delle carceri e nel napoletano anche ovviamente all'esterno del carcere, perché intercedesse con le Brigate Rosse per fare rilasciare Cirillo. La sentenza definitiva ha provato che l'ADC, che esponenti dell'ADC fossero intervenuti in questa trattativa, trovano sia che loro si erano costituiti parte civile nel processo all'ADC e che fu condannata in appello a pagare le spese perché si disse non siete stati diffamati, ma in realtà effettivamente siete intervenuti. Cutolo, tra le condizioni che pone per la liberazione di Cirillo è che poi ci sia la possibilità di intervenire nel discorso di costruzione, solo che lui a un certo punto pretende di ricattare lo Stato, perché chiede che vengano mantenuti tutti i patti che lui aveva concordato per suo interessamento a favore della liberazione di Cirillo da parte delle Brigate Rosse. Possiamo dire che fortunatamente abbiamo avuto un momento in cui questi equilibri si sono rotti. In quella occasione avevamo un grande presidente della Repubblica che si chiamava Sandro Pertini, il quale pretese che Cutolo venisse trasferito alla Sinara. La nuova famiglia riesce invece a sostituirsi a Cutolo nei rapporti, nel tentativo di legami con la parte dello Stato. E mesi dopo anche Ciro Cirillo abbetterà il pagamento di un riscatto. L'ho detto, lo confermo, lo dichiaro. Ci sono delle lettere di amici che offrivano contributi anche modesti e io non metterò mai in circolazione queste lettere, perché non è giusto che vadano in pasto a tutti coloro che hanno fatto un atto di amicizia e di generosità pur non avendo nessun motivo se non quello affettivo di essere solidali con me e con la mia famiglia. Il giallo e nero sulla Camorra torna tra poco dopo la pausa. Giallo e nero di Daniele Biacchessi. Antonio Amaturo è il capo della squadra mobile di Napoli. Il poliziotto indaga in quegli anni sulle collusioni tra Camorra, Brigate Rosse, servizi segreti nel sequestro di Ciro Cirillo. Il 15 luglio 1982 viene ucciso l'avvocato Rosario Rusciano, il legale della famiglia di Antonio Amaturo. Era un uomo estremamente leale, forte, diciamo un molosso, per dare un'immagine, contro il crimine, contro il delitto, dal polso molto fermo. Allo stesso tempo un marito e un genitore tenero, con un affetto rispetto ai familiari e anche al fratello, alla sorella, molto generoso, molto aperto. Però nel suo lavoro, oltre a essere molto capace, estremamente duro, non accedeva a compromessi. Era un uomo estremamente deciso ed era un vero servitore dello Stato, che combatteva la criminalità in maniera molto seria. Ed era tutto d'un pezzo, quindi non scendeva a compromessi. Amaturo è dunque molto vicino alla verità, ma viene ucciso in modo anomalo, come ricorda l'avvocato Rosario Rusciano. Il comando in fuga con un ferito, almeno un ferito, trova rifugio verso Salita Mogliariello, in una serie di vicoli di Napoli, e si palesa immediatamente, stando alle dichiarazioni dei brigatisti, ad alcuni piccoli delinquenti della zona, i quali, lungi dal rifugire dal contatto, cosa abbastanza normale, i brigatisti non avrebbero mai palesato la loro identità e i delinquenti comuni mai avrebbero dato rifugio ai brigatisti. In questo caso invece ci fu. Estate 1981. Leo Luca Bagarella, Totò Riina, Bernardo Provenzano raggiungono la tenuta dei Nuvoletta di Poggio Valesana a Marano. Tentano un accordo tra Cosa Nostra, Nuova Famiglia e NCO, ma il potere di Cutolo è ormai indebolito. 29 gennaio 1983. Il braccio destro di Cutolo, Vincenzo Casillo, detto Onirone, muore nell'esplosione della sua auto in via Clemente VII a Roma, poco distante dalla sede del SISDE di Forte Boccea. La Camorra si riorganizza e intorno ai clan più potenti della nuova famiglia nascono nuove alleanze. Un cartello che aumenterà la propria influenza in Campania è quello dei Casalesi. Nati a Casal di Principe, in provincia di Caserta, da una federazione tra le famiglie Bardellino, Schiavone, Iovine e De Falco, traggono profitti dall'estorsione e dal mercato del calcestruzzo, delle carni, della droga e dei rifiuti. Il giudice per le indagini preliminari della procura di Santa Maria Capua Vetere, Raffaele Piccirillo, ha intercettato più volte i traffici illegali del clan dei Casalesi. Il clan dei Casalesi è il fenomeno camorrista che più da vicino somiglia al fenomeno mafioso. Innanzitutto perché nella sua storia originaria ci sono legami con la mafia, ma al di là di questo c'è per esempio questa struttura di cupola che certamente non presentano le organizzazioni criminali napoletane. C'è una sorta di confederazione, cioè ciascuna zona è controllata da un'organizzazione criminale che fa capo a una determinata famiglia o a determinati capi clan, ma quando l'azione criminale, l'azione estorsiva ha un interesse, diciamo, patrimoniale più elevato o quando si tratta di decidere degli omicidi, questo tipo di decisione va adottato in sede centrale. Siamo nel 1998. Dalla dissoluzione della nuova famiglia emerge il nuovo boss Paolo Di Lauro. Controlla gli affari di Secondigliano e della periferia est di Napoli. Di Lauro riesce a rendersi indipendente dai clan affiliati. Dai rapporti con Cosa Nostra e i Nuvoletta impara a trattare direttamente con i trafficanti di droga. Il controllo sulle forniture da Albania e Sud America obbligano le famiglie ad avere buoni rapporti con lui. Paolo Di Lauro si arricchisce. Già lo chiamano Ciruzzo o milionario e nel 2001 diviene latitante. Lui fugge da Secondigliano e lascia un vuoto di potere. Nei codici delle organizzazioni criminali, quel vuoto lo si può colmare solo con le rivoltelle e con gli agguati. Il 18 settembre 2005 i carabinieri arrestano Paolo Di Lauro. Il blitz che porta all'arresto di Paolo Di Lauro scatta poco dopo le 6 di mattina. Una ventina di carabinieri del ROS, raggruppamento operativo speciale, circondano l'edificio situato in mezzo all'arco, la stradina che si trova in via Cupa dell'Arco a Secondigliano. Ricevuta la notizia che Paolo Di Lauro si nascondeva nell'abitazione della fidanzata di un gregario del clan, i ROS hanno deciso di eseguire una perquisizione. I militari hanno bussato alla porta. Io sto calmo, tranquilli, tranquilli, ha detto Paolo Di Lauro ai carabinieri. Giovanni Corona, il pubblico ministero della Procura di Napoli, ha indagato più volte sulle attività di Paolo Di Lauro. Paolo Di Lauro, sin dal 1981, è cresciuto nell'ambito della nuova famiglia. Successivamente del Di Lauro si è sentito parlare nel momento in cui vi è stata appunto l'indagine, che poi è quella che è sfociata nell'attuale processo che si svolge dinanzi alla quarta sezione penale, in quanto è stata ricostruita questa organizzazione, che è un'organizzazione che rispetto alle organizzazioni che operano a Napoli di carattere camorristico, che hanno una valenza di bande di quartiere, Di Lauro costituisce in pratica referente di una sorta di direttorio di soggetti che controllano le piazze di spaccio della sostanza stupefacente che è venduta sia a Secondigliano sia soprattutto nel quartiere di Scampia. Se sono eventualmente sorti dei disaccordi nell'ambito di queste famiglie, potrebbe appunto essere stato questo uno dei fattori che ha determinato poi la catena di delitti che si stanno verificando in questo momento nel quartiere di Secondigliano. Ci sono una serie di latitanti che sono pericolosi, uno di questi è capo del clan omonimo che ho detto è alleato confederato al clan Licciardi, è Edoardo Contini, e ci sono poi nell'interland della città di Napoli i fratelli Russo che appunto operano nel Nolano e che sono tra quelli inseriti nell'elenco dei 30 latitanti più pericolosi. Ma oggi come è strutturata la camorra in Campania? Quali sono i suoi affari? Come si muove nel territorio e soprattutto quali sono i rapporti con la politica locale e nazionale. Roberto Saviano è un giornalista e scrittore e autore di Gomorra, libro inchiesta sulla criminalità organizzata a Napoli e provincia. È l'ultima traccia che ci porta all'attualità. Ho cercato di raccontare il potere imprenditoriale della camorra, che in genere, benché osservato dalla magistratura e dalla procura antimafia di Napoli, non aveva, per diverse ragioni, come dire, un'attenzione nazionale. E la cosa molto strana è che la Campania la dividono in genere appunto in due, quello che riguarda il napoletano e quello che riguarda il casertano. In realtà sono due camorre, quella napoletana e quella appunto casertana, molto potenti, e quella per esempio secondiglianese è stata, credo, profondamente sottovalutata all'attenzione nazionale, perché ridotta esclusivamente a bande che si ammazzavano durante appunto il periodo della faida. Tutto il mercato del narcotraffico, la trasformazione di Secondigliano, per esempio, in una delle più grandi piazze di spaccio d'Europa, e la gestione del tessile, come la procura antimafia di Napoli tra l'altro aveva anche dimostrato nel 2004, e il fatto che per esempio il clan Licciardi avesse investito a Taipei, in Libia, in Francia, oppure in Uvoletta a Tenerife, il ciclo del cemento gestito più o meno in ogni parte d'Italia, e soprattutto il potere legato ai rifiuti. I clan campani sono in grado di gestire tonnellate di rifiuti tossici e meno tossici dell'Italia industrializzata. D'altronde il vescovo di Nola disse proprio questo: hanno trasformato i clan l'Italia meridionale, ecco, quindi non era solo la Camorra, nella discarica a cielo aperto dell'Italia industrializzata. Quindi voglio dire, insomma, che ho cercato di dimostrare o di raccontare un problema che non riguarda solo il sud Italia, non riguarda soltanto Napoli, ma il problema Camorra, essendo un'impresa in qualche modo vincente, riguarda l'intero paese. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.